Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. La prima forma di globalizzazione nasce all'indomani della scoperta dell'America, quando Spagna e Inghilterra danno vita al processo di colonizzazione del nuovo continente, imponendo ai popoli nativi i loro modelli politici e culturali. Due modelli completamente diversi che Sir John Eliot, professore emerito di storia moderna a Oxford, mette a confronto nel libro di prossima pubblicazione Imperi dell'Atlantico, America Britannica e America Spagnola, 1492-1830. Sulle pagine dell'inserto culturale del Sole 24 Ore, Miguel Gotor commenta in anteprima i contenuti di questo volume. Il libro propone un confronto tra il colonialismo spagnolo e quello inglese nelle Americhe, ossia tra i due modelli imperiali più significativi dell'Europa moderna. Un viaggio parallelo che incomincia con la scoperta dei rispettivi nuovi mondi da parte di un astuto notaio dell'Estremadura, come Hernán Cortés nel 1519, e di un ex corsaro monco di un braccio di nome Christopher Newport nel 1606, e si conclude con il racconto del progressivo ma inesorabile sfaldamento dei due sistemi imperiali. Due imperi allo specchio, l'uno davanti all'altro. L'America spagnola riflette una struttura centralizzata e burocratica del potere, con stretti legami di dipendenza con la corona e un investimento statuale energico che, accanto all'uniformità linguistica, impone una solida omogeneità religiosa imperniata sul cattolicesimo. Il dominio imperiale è influenzato dall'alto grado di urbanizzazione incontrato, dall'elevata presenza demografica autoctona, dalla difficoltà di spostarsi agevolmente a causa di una natura e di un territorio ostili e soprattutto dalla scoperta di ingenti giacimenti minerari in grado di garantire, per oltre tre secoli, non solo l'autosufficienza economica delle colonie, ma anche il finanziamento bellico e l'alto livello dei consumi dell'aristocrazia spagnola nella madrepatria. L'America britannica, invece, rispecchia una struttura più aperta e flessibile, priva di una strategia di dominio organizzata. Un impero che esisteva solo nella fantasia, come notato dall'economista Adam Smith. Lo scarso numero di indigeni e l'assenza di una cultura urbana preesistente favorisce lo sviluppo del mito della frontiera, così come la presenza di numerosi fiumi navigabili facilita gli spostamenti e i commerci via terra. L'assenza di ricchezze nel sottosuolo e la fertilità del terreno agevolano l'espansione di un'economia agricola imperniata sul cotone e sul tabacco. Tuttavia, rispetto alla Spagna, i costi sostenuti dall'Inghilterra nella difesa e nel mantenimento delle colonie sono maggiori dei benefici ottenuti. Sul piano religioso non si ha l'affermazione di una sola confessione, ma la diffusione di un mosaico di minoranze protestanti in fuga dall'Europa che per convivere sono obbligate alla tolleranza reciproca. Una condizione di pluralismo che ha favorito l'irradiamento di una cultura politica incentrata sui principi del consenso rappresentativo e della inviolabilità dei diritti individuali. Se le due potenze europee appaiono divise in tutto, non lo sono però nel considerare quegli immensi territori come uno spazio sacro e provvidenziale, assegnato loro per diritto romano e divino, al prezzo di massacrare gli abitanti locali e di fare uso e abuso di milioni di africani deportati in America come schiavi e forza lavoro praticamente gratuita. Nell'impresa di Eliot non interessa solo il tema scelto, ma soprattutto la vertigine dei problemi che affronta. L'avere accettato e vinto la sfida comparatista, fornendo un esempio notevolissimo della fecondità di un metodo che tanti evocano, ma pochi possono e sanno praticare con l'acribia e la leggiadria dello storico inglese. In effetti, per azzardarsi a comparare due realtà, bisognerebbe dapprima conoscerle nella loro intima singolarità e non limitatamente ai punti di interconnessione, giacché l'autentica storia comparata si deve occupare delle similitudini come delle differenze e non è mai un discorso sulle identità, inevitabilmente ideologico, psicologico o memorialistico, ma sul loro trasformarsi dinamico, intrecciato, relazionale, in una sola parola, storico. Elliot accetta e vince anche su una seconda sfida che lo rende originale rispetto allo spirito dominante del tempo e perciò tendenzialmente fecondo. Sceglie una cronologia lunga e uno spazio dilatato in un'età, la nostra, in cui tutte le discipline, non solo la storia, si definiscono in quanto specialismo, col rischio di smarrire il senso del movimento globale, il respiro e il ritmo di un corpo culturale preso nel suo insieme, dentro un contesto che è, anzitutto, un fascio di rapporti di forza e di condizioni date sul piano climatico, demografico, antropologico, economico, energetico, materiale. Dal predominio di questa tendenza scaturiscono gli idola pedagogici di oggi di, dell'interdisciplinarità e dei collegamenti che sempre più rischiano di mettere in relazione due diverse forme di fragilità o, nei casi peggiori, di ignoranza, che sarebbe come pretendere di costruire un ponte senza i pilastri. In questo libro, invece, di cemento armato ce n'è in abbondanza. Si parla di impero spagnolo con la competenza di chi ha dedicato un'intera vita a studiare la monarchia asburgica, non fuori dall'Europa, ma dentro lo scacchiere continentale. Ma si parla anche di impero inglese, perché a quelle conoscenze magistrali Elliot ha avuto l'umiltà di aggiungere una quindicina di anni di nuove ricerche sui meccanismi di funzionamento dell'America britannica, così da poter possedere i requisiti per comparare i due imperi entro un contesto atlantico. La fisarmonica comparatista di Elliot suona una melodia dolce e stridente al tempo stesso, quella che accompagna da sempre l'incontro e lo scontro fra gli uomini, l'indifferenza, il pugno e la carezza dei nostri scambi. Per questa ragione ci auguriamo che possa essere ascoltata da chi si appresta ad attraversare oggi l'Atlantico, al nord o al sud, per turismo o per lavoro non importa, ma anche da quanti amano spostarsi con la mente e con il cuore, grazie alla lettura. La storia, la buona storia, infatti, è sempre musica e viaggio. Avete ascoltato un commento di Miguel Gotor al libro di John Eliot, Imperi dell'Atlantico, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Uno spettro si aggira nell'etere venezuelana. Hugo Chavez è pronto a irrompere radiofonicamente a qualsiasi ora del giorno o della notte nelle case dei suoi concittadini. A sorpresa, annunciato solo dal suono di un'arpa. Ogni qualvolta lo desidera, magari perché mi capita di essere sveglio alle 3 del mattino con la voglia di parlare al mio popolo e sono sicuro che qualcuno è lì pronto ad ascoltarmi. Il presidentissimo la chiama guerriglia radiofonica. E ha ragione, perché Chavez de repente... Chavez all'improvviso, l'ultima invenzione mediatica del codillo pop, è l'equivalente radiofonico di un agguato. Per il popolo venezuelano ora davvero non c'è più riparo. Sono 10 anni che ogni domenica Chavez parla con i venezuelani. Attacca alle 11 di mattina e va avanti per ore, in media 5, ma può arrivare fino ad 8, discettando su tutto, dai suoi problemi gastrointestinali alla crisi energetica. Allo presidente, l'imprevedibile messa bolivariana in diretta TV fino a poco fa gli bastava. Per festeggiare i 10 anni di potere al microfono, l'anno scorso si è regalato una maratona di 4 giorni, anzi, una telenovela. Si sa quando comincia, ma non quando finisce, la reclamizzò il presidente. Era un'avvisaglia della volontà di liberarsi anche della tirannia del palinsesto, poiché l'orario ingessa e comprime la performance. E soprattutto facilita la fuga del cittadino refrattario che scappa al mattino e torna al tramonto. Così Chavez ha moltiplicato le incursioni a sorpresa ai programmi radiotelevisivi. Ha imposto per legge a tutti i canali TV di trasmettere i suoi discorsi più importanti. Ha staccato la spina delle emittenti recalcitranti, come la dissidente RTCV, colpita da un blackout politico a fine gennaio. Ma Chavez, de repente, è il suo capolavoro, la conferma che sul campo della comunicazione politica non ha quasi rivali. Chavez non moltiplica banalmente le radio o le TV puntando all'egemonia o al monopolio. Vuole di più. L'onnipresenza, non l'onnipotenza. Parlare quando vuole, come vuole, dove vuole. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Luigi Spinola, Il palinsesto full time di Chavez, dal Riformista dell'11 febbraio. Anche quest'anno è arrivato San Valentino. Tutti raccontano di non festeggiarlo, ma poi i fiorai vendono e anche i cioccolatini vanno a ruba. E per chi anche quest'anno vuole stupire il partner senza cadere nei classici? Come farò quest'anno a dimostrare il mio amore in un modo originale, in modo diverso dal solito? Semplice, basta dirlo con i palloncini. Si tratta di palloncini singoli, o meglio composizioni e bouquet di palloncini, ricoperti di cuori, scritte o dediche stampigliate sopra, o ancora di palloncini a forma di cuore gonfiati ad elio da far consegnare direttamente a casa dell'amata o dell'amato. Balloon Express Shop provvede a tutto questo, per gli amori che nascono e per quelli che non finiscono mai. E non si ferma qui. C'è un incredibile catalogo da sfogliare online, buono per ogni occasione. Nascite, palloncino a forma di bebè che regge dei mini palloncini, primo compleanno, composizioni in azzurro o rosa, nascite gemellari, coppia di bambini palloncini che reggono a loro volta due palloncini e la scritta Baby Boy, battesimo, mongolfiera, prima comunione, composizione di mini palloncini e mongolfiere. La serie degli Happy Birthday è invece ricca di soluzioni, mentre Auguri Nonna è un capolavoro dal rosso al fucsia, con stelline e scritte ben auguranti. C'è anche in offerta un portale composto da palloncini gialli con faccine sorridenti. Smile! La laurea è invece in rosso, come la serie Love. L'apice del dillo col palloncino è però il palloncino parlante, con tanto di musichetta e auguri vocali. Anche questi proposti per le diverse occasioni, dal compleanno al Natale, da Halloween al matrimonio. Non c'è occasione o cerimonia che sfugga alle composizioni gonfiate a elio. L'idea l'ha avuta una ragazza. Nel 1991 li ha scoperti in America, in occasione del suo compleanno, festeggiata in albergo da tanti palloncini colorati. Ora è un affare, con vendita di gadget, oggetti, e si organizzano persino corsi e seminari per imparare l'arte del palloncino. Mi sembra la risposta ideale a questi anni così pesanti. Rendere leggero tutto, far galleggiare parole, pensieri, sogni. La festa come condizione quotidiana dell'esistenza. Viviamo in una società che ha rovesciato un vecchio detto. La maturità è tutto. Ora invece l'immaturità è tutto. Evviva San Valentino! Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marco Belpoliti, Un palloncino per dire ti amo, dalla stampa dell'8 febbraio.